siamo solo, ma sempre più giù. Benvenuti a Dedicato, siamo qui oggi con Ivano Zanotti, the big drummer. Ecco, hola a tutti, ciao. Ciao, Ivano Zanotti. Grazie di essere con noi oggi, è veramente un onore. Allora, lo presentiamo perché comunque Ivano è batterista a livello internazionale e a livello nazionale suona con dei personaggi veramente importanti come Loredana Bertè. E tra qui, cui appunto la trasmissione. Esatto. Quindi sono venuto solo per quello. Bene. Solo grazie. Per Dedicato, no, e per Erika naturalmente. Perfetto, e bene, quindi abbiamo appunto fra i personaggi con cui suoni Ligabue, hai suonato con Vasco. Adesso Alan Sorrenti è stato Bertè, nostro ospite. Adesso quest'estate facciamo Cristiano De Andrea anche. Ah, benissimo, quindi insomma il panorama è enorme. Più bene. Tutti i gruppi underground bolognesi che avrò suonato, se no con 100 gruppi da quando ho iniziato oggi. Ecco. Quindi ne ho fatti qualcuna. Infatti di quello parliamo, no? Da quando hai iniziato, hai detto? Quando hai iniziato? Ho iniziato da piccolino, ormai 7-8 anni, nella banda del mio paese. Abito nella banda di Monzuno, abito lì vicino, e ho iniziato così proprio per puro divertimento e puro casinista, perché ero un bambino leggermente vivace, dicevano, e quindi niente, ho iniziato così per sfogarti, puro divertimento, sfogarci, quello che vuoi. E per fortuna c'era questa banda che offriva questo... Quindi tamburo in banda alla fine? Sì, certo. Ok. No, tamburo in banda, ma no, proprio il corso della banda, per suonare il tamburo in banda ci ha voluto 10 anni. Ah. C'è voluto, le bande una volta erano come militari, cioè non è che certo. Suonare il tamburo, no. Tamburo è la stella della banda, no? Quindi ci vuole una gerarchia prima, che è lunga. Quindi prima sono andato a lezione nel corso della banda, poi dopo a 11 anni sono entrato in banda, prima la cassa, poi i piatti, insomma, per suonare il tamburo ci ho messo sì, tipo 10 anni, 7-8 anni almeno. Ah, però. Nella banda, poi lo suonavo a casa naturalmente. E nel frattempo però poi hai intrapreso altri percorsi, fatto altre strade, perché io ti ho conosciuto per esempio in conservatorio. Quindi... Certo, beh, dopo la banda, dopo solo poi 2 anni di banda, alla fine di corso della banda, dopo mi hanno indicato, perché come le vecchie bande di una volta non c'erano gli insegnanti di batteria, perché proprio non c'era neanche la batteria, quindi lo insegnava il maestro direttamente, e quindi dopo 2 anni ho detto vai da un batterista veramente, perché sennò io dopo un po' non so più cosa dire, e quindi dopo ho iniziato a fare il mio corso di lezioni private dal grande Mauro Gherardi, che salutiamo, e poi dopo sono entrato al conservatorio dove ti ho anche conosciuta, e nel 97 sono entrato, sì, 96-97. Sì, sì, più o meno gli anni erano quelli. Esatto. E quindi niente, quindi diploma di conservatorio, lezioni di batteria con Gherardi, che è appunto grande maestro, sì. Dopodiché hai iniziato a suonare, cioè parallelamente hai iniziato a suonare con i primi gruppi, certo, no? Certo, certo, sì. Si fa sempre così, cioè nel senso la carriera del musicista è sempre un parallelo di qualcos'altro, o che vai a lavorare, o che studi, o che è sempre un parallelo di qualcos'altro che devi fare, perché all'inizio, prima di riuscire a fare qualcosa di buono, passano certo degli anni e delle ore di studio, naturalmente. Certo, no, perché i nostri giovani oggi invece fanno un sacco di formazione, poi arrivano a 20-25 anni che magari non hanno mai suonato con un gruppo, e ne conosco un pochettino di ragazzi così, invece... Il percorso, secondo me, del musicista è quello che hai fatto tu, che abbiamo fatto tutti noi. Certo, no? Certo. Iniziare a suonare. Un musicista che non suona e studia solo, secondo me... Non può capire neanche quello che sta studiando dopo un po'. Cioè, esatto. Non riesci a metterlo in pratica, non riesci a capire cosa serve di più, cosa serve di meno. Non puoi studiare, ma cioè, non avrebbe senso. Insomma, non... Certo. E invece in quegli anni cosa ascoltavi di musica? Perché oggi, allora, noi abbiamo un negli po' di diverbi. Negli anni dell'adolescenza, dici? Negli anni in cui è nata la tua passione musicale. Ah, ok. Allora, oddio, proprio quando è nata, vabbè, ero molto piccolo, quindi ascoltavo quello che ascoltava mia mamma in macchina. Quindi ascoltava Vasco, Battisti e poco altro. Beh, diciamo. Però, dai. Poi dopo, a 12-13 anni, ho iniziato ad ascoltare un po' di tutti, fra cui il mio idolo, che è ancora il mio idolo, il boss, Bruce Springsteen. Poi invece nell'adolescenza, quindi dai 15 in poi, sono diventato un metallaro forte, cioè per almeno 3-4 anni ascoltavo musica violence, voto, hard rock, metal, death metal, tutto quello che vuoi, infatti mi piace, e sono comunque di estrazione rock, poi dopo lì era anche più duro, però sono di estrazione rock, poi dopo tutto, cioè naturalmente un musicista ha le sue fasi all'inizio, poi dopo inizia a ascoltare un po' di tutto, perché... La musica, quando capisci che è così bella, è bella tutta, poi certo. Sia più dura, meno dura, cantautorale, strumentale, ho suonato anche musica strumentale che mi piace, anche se non sono prettamente sul filone jazzistico, ma musica tipo jazz rock, funk fusion, insomma roba che mi si addiceva di più. Abbiamo ascoltato First Element dei Sip Tonic, uno dei gruppi in cui Ivano ha suonato, quindi con lui alla batteria, e anche alla batteria nella nostra sigla di oggi, che era dedicato di Loredana Bertè, però nella sua veste più attuale. Quindi eccoci tornati in studio con Ivano, col quale stiamo veramente ridendo un sacco oggi. E la domanda è una domanda difficile, perché noi di dedicato ti vogliamo chiedere: cosa deve fare un giovane fanciullo di oggi per intraprendere la carriera di batterista? Perché allora, non è una cosa facile, già ai tempi nostri non lo era, oggi men che meno. Il primo consiglio è di cambiare subito il lavoro, così c'è più spazio per me. Che tu di spazio ne occupi. Esatto, quindi io già sono ingombrante, dicono in tanti. No, invece come tutti appunto i lavori artistici, quindi musica, danza, teatro, tutto quello che vuoi, nasce da una passione vera e pura, e quindi come tutti questi lavori diventano dei lavori più belli del mondo per chi li fa. Però, cosa che magari i giovani d'oggi sanno un po' meno, ma perché sono condizionati da questi social, influencer, che sembra che sia tutto abbastanza facile, fare influencer è tutto facile, invece fare il musicista non è così facile come fare l'influencer, perché ci vogliono ore e ore di studio, certo, applicazione, gavetta tanta, e appunto come uno su un milione può avere la fortuna di arrivare prima in un posto, gli altri 999.000 devono fare tutto il giro, quindi ci vuole veramente una grande dedizione. Quindi come dico a tutti i miei appuntamenti di masterclass, cliniche, quello di eufonica che faccio, veramente la passione è tutto, perché gira intorno a quello, perché ti dà una spinta in più naturalmente per fare le cose, ma ci vuole della grande determinazione per farlo. Quindi alla grande fatelo, però sappiate che veramente dovete giocarci tutte le carte che avete in tavola. Certo, tu oltretutto adesso, sempre questa la diamo come informazione, insegni al Conservatorio di Trapani, e c'è, certo, la classe di batteria pop rock che hanno aperto da poco, giusto? Sì, beh, qualche anno ormai, saranno 5-6 anni, io ci insegno da 3 anni, e classe pop rock, come adesso tanto stanno aprendo in tantissimi conservatori d'Italia, perché i corsi pop naturalmente sono quelli che stanno andando per la maggiore, quindi anche i conservatori hanno bisogno di questi, e quindi stanno aprendo tanti. Io insegno a Trapani attualmente, è terzo anno, ed è meraviglioso proprio perché insegni proprio cosa deve fare la batteria, a parte le cose tecniche, quindi preparare sullo strumento, ma cosa deve fare il batterista nell'ambito del pop rock, quindi in questo mestiere qua. Perfetto, va bene. Ok, quindi devono darci dentro, è quello il concetto. Quello sempre, e via, sorriso e felicità, ma tanto studio. Ok. Ce le mettete voi in faccia pian piano, e abbiamo fame di quella fame che il vostro urlo ci regalerà. Abbiamo l'aria di chi vive a caso, l'aria di quelli che paghi a peso, e abbiamo scuse anche se buone, non c'è nessuno che li ascolterà. E poi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città, ci mette davanti a un altro microfono, chi qualche cosa succederà. Siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Quelli tra palco e realtà. Abbiamo amici che neanche sappiamo, e finché va bene ci leccano il culo. E poi abbiamo casse di Malox per pettinarci lo stomaco. Abbiamo soldi da giustificare e complimenti per la trasmissione, e abbiamo l'ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po'. E poi abbiamo chi scegli la tua verità. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo quelli là, quelli tra palco e realtà. Quelli tra palco e realtà. Ragazzo di dubbio spenti e non abbiamo chi ci fa sconti, che quando è l'ora si saluterà. E ce l'abbiamo qualche speranza, forse qualcuno ci ricorderà. Non solamente per le canzoni, per le parole o la musica. Noi siamo quelli là, siamo quelli là, siamo questi qua. Quelli tra palco e realtà, ta-ta-ro-ra-ra, ta-ta-ro-ra-ra, ta-ta-ro-ra-ra. Quelli tra palco e realtà, ta-ta-ro-ra-ra, ta-ta-ro-ra-ra, ta-ta-ro-ra-ra. Quelli tra palco e realtà, ta-ta-ro-ra-ra, ta-ta-ro-ra-ra. Quelli tra palco e realtà. Ligabue live all'Arena di Verona, alla batteria sempre il nostro Ivano Zanotti, the big drummer. E allora passiamo all'ultimo argomento, l'ultima domanda che ti vorrei fare, e cioè cosa vuol dire fare batterista ai tuoi livelli, nel senso con i personaggi con cui suoni tu, perché sai, suonare davanti a 100 persone ha un senso, e suonare davanti a 50.000 persone tipo a Campovolo con Ligabue, insomma, c'era. C'era un po' di gente, 110.000 c'era 110.000 persone, insomma. E, no, come dico spesso, ti dico, alla fine certo la differenza c'è, 1.000, 10.000, 50, 100 ci sarà sempre, però alla fine la differenza maggiore lo fa quando il posto è pieno, quindi anche se suoni in un club da 1.000 persone però è molto pieno per te, è quasi la stessa sensazione che suonare a San Siro con 50.000, non è la stessa naturalmente, però non è, quando sei abituato a farne tante anche così più piccole, non è che ti cambia così tanto anche quando vai a San Siro. Naturalmente invece se la prima esperienza la fai lì, allora potresti svenire e andare all'ospedale diretto, ma arrivandoci da un percorso come abbiamo detto, dopo non fa quella differenza, dopo naturalmente ti godi lo spettacolo, perché vedere 50.000 persone non è una cosa che ti capita tutti i giorni, certo. Urlare e cantare per te, quindi, però non è tutta lì la differenza poi dopo è stare sul palco con gli altri musicisti, essere pronti, preparati e godersi quegli attimi incredibili che nascono su quei palchi lì. E tu che ti sentivi pezzi di Ligabue quando eri piccolo, no? E adesso li suoni, che effetto ti fa questa cosa? Cioè, è una roba. Allora, mia mamma ascoltava Vasco, quindi non ascoltavo. Ligabue no. Allora no, Ligabue. No, lo ascoltavo dopo io, perché invece la madre dei miei figli invece ascoltava molto Ligabue, quindi l'ho ascoltato molto dopo. No, beh, certo, è una cosa sempre strana e simpatica, naturalmente, andare a suonare con chi invece prima ascoltavi, quindi poteva essere la Bertè, può essere Gabour, può essere Christian D'André, in questo caso in onore a Fabrizio, cioè è una cosa particolare, però sono piccoli sogni che si avverano anche quelli, certo. Naturalmente. E tu puoi metterci mano in questi brani oppure vanno eseguiti esattamente come da disco? Hai una parte creativa che puoi tirar fuori? Come... Lì dipende, dipende molto dall'artista o dal direttore musicale che c'è, e quindi alcuni brani devi essere più diligente, altri brani riesci a metterci qualcosa di più personale, quindi lì è solamente un accordo che fai con, alle prove del tour, con l'artista o il direttore musicale che fa le veci poi dell'artista, quindi dipende dal brano, dipende, non tutti sono curati uguali, alcuni vogliono che siano uguali, altri invece puoi mettersi del tuo, eccetera. Ok, grazie. E allora noi ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko con Dedicato. E salutiamo i nostri ascoltatori. Salutiamo tutti i vari Dedicato del mondo e dedichiamo un mondo di musica, un mondo di gioia e tanto rock and roll. Ciao! Ciao, grazie Ivano. Dopo troppo solo, ma sempre più giù.